La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci ancora tutti insieme attorno al focolare del grande schermo, chiamiamolo così, qui a Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi per la nostra ora di cinema settimanale, La Rosa Purpurea, per raccontarvi tutte le novità o parte, quella meritoria, delle novità in sala, poi per raccontare il cinema che c'è da vedere in casa, le nuove rassegne, i grandi festival che sbocciano a primavera, Locarno e Venezia, insomma ne parleremo durante questa puntata che segna anche il ritorno in sala di Claudio Bisio, ed è sempre una cosa che poi fa rima con box office, lo vedremo lunedì prossimo. Cominciamo subito con i nostri titoli di testa. Ancora un politico per caso nella commedia italiana. Questa volta è Peppuccio, presidente della Repubblica suo malgrado, interpretato da Claudio Bisio, che torna al cinema con Benvenuto Presidente, commedia destinata a scalare le zone alte del box office. Hostess e passeggeri di un volo sull'orlo di una crisi di nervi. Torna alla commedia Pedro Almodóvar con Gli amanti passeggeri, un viaggio in un aereo molto caliente, teatro dei destini di un gruppo di persone che vogliono capire qualcosa su loro stessi, al confine tra la vita e la morte. Una famiglia preistorica che ha paura di tutto ciò che c'è fuori dalla caverna. Sono i Croods, commedia d'avventura della DreamWorks che ci riporta alle origini della Terra e ai suoi primi abitanti. Due bambine abbandonate. Una mamma adottiva, un'altra molto possessiva, fatta dell'essenza dei fantasmi. È La Madre, film del regista argentino Andrés Muschietti, interpretato da una brillante Jessica Chastain. Un horror senza sangue che convince. E allora, questi i contenuti principali della trasmissione. Cominciamo con il film appunto che vi abbiamo annunciato nella nostra presentazione, Benvenuto Presidente, di Riccardo Milani, con Claudio Bisio, Casia Smutniak, Remo Girone, Beppe Fiorello, insomma cast piuttosto importante e collettivo, per raccontare ancora una volta le vicende di un politico per caso. È l'anno buono per il cinema italiano, lo ha fatto Roberto Andò con il bellissimo Viva la Libertà, con Tony Servillo, fratello pazzo di Tony Servillo, nei panni del segretario del PD. Adesso invece tocca addirittura alla prima carica dello Stato, al Presidente della Repubblica e a un peppino qualsiasi che si trova a un certo punto catapultato in quei panni e, diciamo, li interpreta in maniera abbastanza libera. Buonasera, salutatemi il presidente. Sti cazzi. Ligi. Bella questa piazza, porca miseria. Excuse me. Parla italiano? Yes. Oh, yes, si dice sì se parla italiano. Che tempura che faccio. Scusate, posso chiedere, ma where is pizzeria buona? Bello. Cos'è quello? Lola Bleda. Lola Bleda. Ma si comprano? Sì. Dove? Sì. Ciao Peppe. Sì. Sì. Insomma, commedia degli equivoci, la lingua, gli stilemi della commedia italiana che sotto sotto fanno da carboni ardenti per questa vicenda. È in collegamento con noi Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Buongiorno Franco e a tutti gli ascoltatori. Dicevamo, l'anno dei politici per caso nel cinema italiano, anche questa volta con Benvenuto Presidente e con Claudio Bisio. Ma sì, Bruno, Andò, adesso Milani, prima Albanese, davvero ci hanno provato in tanti a raccontare la politica, ed è curioso perché per quanto riguarda la costruzione dei film sappiamo benissimo che si parla di percorsi di 2-3 anni, quindi quasi tutti lo hanno fatto ben prima di queste elezioni, ma probabilmente anche ben prima della caduta del governo Berlusconi, quindi c'era un vento, insomma, di novità che il cinema sicuramente hanno usato prima dell'elettorato, e questo è interessante per capire quanto possa essere importante l'arte e quanto possa essere importante costruire un sistema produttivo che magari non faccia arrivare in ritardo questi film. Milani decide di andare a pescare laddove insomma gli altri ancora non avevano pescato, perché Andò aveva parlato di un candidato presidente del Consiglio, Albanese di 3 deputati per caso, diciamo, presi direttamente dal carcere, Max Bruno di un candidato di destra alla presidenza del Consiglio che viene colto da una malattia per cui dice solo verità, qua Milani punta in alto direttamente Presidente della Repubblica. Si richiama chiaramente ai modelli americani di Dave, un presidente per un giorno, di questi presidenti appunto che finiscono laddove non dovrebbero. Per caso, in questo caso c'è una manovra politica che fa votare tutti quanti i gruppi Giuseppe Garibaldi come provocazione. Il guaio è che un Giuseppe Garibaldi in Italia esiste ed è eleggibile, ed è proprio questo pescatore Claudio Bisio che finirà sul posto più alto di comando in Italia, e la sua carica non sarà di rappresentanza. La sua umanità, la sua diversità, la sua incapacità di entrare nei compromessi politici, perché il suo padre gli ha insegnato ad essere onesto fino in fondo, cambierà completamente la storia d'Italia, negli accordi bilaterali col Brasile, negli accordi bilaterali con la Cina, e ci farà pensare che in fondo basta poco per diventare un paese diverso, basta poco per fare una rivoluzione, basta magari far diventare il Quirinale un ricovero per barboni, semplicemente per altruismo. Il film ha le sue ingenuità, secondo me più di sceneggiatura che narrative, perché tutte quelle derivanti dall'entusiasmo, dal fatto di voler costruire una fiaba, come capitava per Andò, sono ben accette. Insomma, la politica manca di idealismo, e consegnargliela con un po' di buoni sentimenti non è un peccato. Mi sono piaciuti di meno alcuni momenti di comicità forse un po' più greve, il primo approccio diciamo fisico tra Kasia Smutniak, che è la segretaria del presidente del segretariato del Quirinale, e Claudio Bisio presidente, appunto forse è un po' alla Cine Panettone, e forse anche la ripresa delle famiglie che vedono alla televisione Claudio Bisio è un po' didascalica, anche se alla fine le loro facce sono molto eloquenti su quello che vuol dire Milani. L'unica cosa che dico, a me è piaciuto molto il film, l'unica cosa che dico, Milani mi fa paura, perché nell'ultima scena, nell'ultima battuta c'è un grado di preveggenza che nessuno poteva immaginare. Non ve lo dico perché dovete vedervi il film e perché dovete gustarvela, però davvero forse per sapere per esempio quali saranno le cose che succederanno nei prossimi 3, 4, 5 anni dovremmo chiedere a Milani, perché davvero ha previsto qualcosa che non poteva essere previsto con molti anni d'anticipo. Presidente, venga con noi, dai! Dai, Presidente! Ha fatto tutto il giro? Sì! Avete letto tutti? Sì! Alzi la mano chi l'ha capita! Alzi la mano chi non ha capito una mazza! Mio nonno mi ha sempre detto, Peppino, se non capisci qualcosa, non firmare! Giusto! No, giusto. Anche perché, scusa, le leggi le hanno fatte per noi. Certo. Se non le capiamo, come facciamo a rispettarle? Anzi, sai cosa faccio io? Finché non trovo una legge chiara, io non firmo una legge! Oh, faccia figo sto presidente, me lo metto su Facebook! E con il presidente Bisio in pizzeria con i cittadini, noi chiudiamo la parentesi dedicata a Benvenuto Presidente. Pedro Almodovar torna alla commedia dopo tanti anni di film che prima hanno incrociato spesso il melò e poi il dramma vero, il dramma cupo, anche come il suo film più recente La pelle che abito. Adesso si torna ai climi che furono quelli dell'inizio della carriera di Pedro Almodovar, almeno il tentativo è quello, poi un tentativo riuscito solo in parte, anzi direi in minima parte, con questo Gli amanti passeggeri, ma sicuramente ci sono tocchi, pennellate, colpi di bacchetta degni del grande maestro Mancego. Siamo sui cieli, il film è praticamente tutto sui cieli, anche se comincia in un aeroporto nel quale in umili ruoli troviamo dei camei di Antonio Banderas e di Penelope Cruz, quasi a ricollegarsi proprio a quella prima parte della carriera di Almodovar, così piena di successi. Poi questo aereo parte e su questo aereo succede qualcosa che non viene detto, ma che capiamo essere qualcosa che inquieta. Da quel momento in poi nella classe business sono tutti molto svegli, molto pieni di segreti che vogliono nascondere e soprattutto molto pieni di sessualità e di sensualità da scaricare l'uno sull'altro, indipendentemente dai generi maschile, femminile o gay, molto presente la componente gay, quasi mi viene da dire ovviamente, in un film di Almodovar. Dalla tendina che separa la seconda classe in poi invece dormono tutti, perché è stato somministrato qualcosa per far dormire tutti i passeggeri della seconda classe. E allora questo spazio angusto, quello della cabina di pilotaggio, quello dove stanno gli steward e le hostess, queste poltrone della prima classe, che sono non più di una ventina, diventa il teatro in cui si consuma alle spalle e all'insaputa di quelli che dormono, di quelli della seconda classe, ovviamente qui c'è metafora a vangate, possiamo dire, si consumano i destini di questo aereo che gira per i cieli di Toledo. Andiamo a sentire la clip. Dovresti spiegarle meglio in che consiste l'avaria. Dimmelo. Non glielo dire. Sono sensitiva. Ho dei poteri. Non funziona un carrello di atterraggio. In questo viaggio succederà qualcosa di molto grosso che ci toccherà tutti. Sento. Ti trovo al momento sbagliato. No, no, per niente, mio Dio. Quando arriveremo in Messico andremo a denunciare la compagnia Peninsula e tutti voi altri. Ti chiedo solo di intrattenervi come sai fare. Anche i passeggeri sono drogati. I piloti non dovrebbero prendere niente, eh? Che ci avete messo in questo cocktail? Bottiglietta di champagne? No. Succo d'arancia in bottiglia? No. Uno schizzo di gin lemon? No. Il tutto mescolato con un'overdose di mescalina. Ecco, insomma, questo è il perché del grande sonno. Un'ora e mezza di tentativo di divertimento, di momenti molto divertenti, di momenti molto scontati per Pedro, che però, ripeto, mette insieme tre o quattro momenti di grande cinema. Mi viene in mente, per esempio, come viene girato il momento, che non vi svelo ovviamente, ma conclusivo, gli ultimi 4-5 minuti prima delle grandi rivelazioni, una mano notevole. La morale alla fine, che i personaggi, stando al confine fra la vita e la morte, o comunque stando nei cieli e rischiando molto di se stessi, sebbene con levità, sebbene con il sorriso sulle labbra, abbiano capito finalmente qualcosa, imparato finalmente qualcosa di se stessi e possano non mentire più a se stessi e agli altri. Questo è un po' quello che Pedro Almodovar vuole raccontarci. Boris, un film che lo stesso Almodovar ha detto è nato da piccole scene che lui ha scritto, che sono proprio quelle alla slapstick comedy, tanta gente in uno spazio molto piccolo, battute a raffica, e questo è stato un po' il nucleo al quale lui ha attaccato poi questa macro storia di questo aereo che gira sui cieli, che poteva essere un'ambientazione geniale a mio modo di vedere per cominciare una commedia davvero riuscita, ma mi sembra che la vena si sia esaurita quasi subito. Sono d'accordissimo con te, soprattutto dopo l'11 settembre poteva essere assolutamente un contesto geniale, anche tra virgolette politicamente. Il punto è che il film sembra da subito l'aereo più pazzo del mondo, girato come se fosse un cinepanettone, che insomma non è una bella immagine. E se il 90% delle scene che vediamo le avesse girate probabilmente Neri Parenti, in questo momento lo staremmo inseguendo con sentimenti poco positivi. L'ha fatto Pedro Almodovar e quindi gran parte insomma degli addetti ai lavori sono stati molto molto più gentili. Il punto è che secondo me Almodovar torna agli anni 80 con l'età che ha adesso, però, e quindi dà la stessa immagine magari di quegli anziani signori che raccontano con nostalgia quello che sono stati e che ovviamente ormai non sono più, e il fatto che riprovino ad esserlo dà la stessa impressione di chi magari si veste giovanilmente quando non se lo può più permettere. E gli Avanti Passeggeri, come dici tu, forse un paio di scene molto interessanti, sicuramente il numero musicale centrale del film, sicuramente quelle ultime scene di rivelazione, ha un soggetto che poteva essere molto interessante, ma poi è un film sostanzialmente gretto sia nella sceneggiatura sia proprio anche nella visione. Tu hai citato i momenti più belli di regia, ma a mio parere ci sono anche momenti girati molto molto male, e quindi è una, per me almeno è stata una delusione continua. Anche le rivelazioni e anche le trasgressioni non sono quelle normalmente almodovariane. Faccio un esempio, tu hai parlato di sessualità e sensualità da scaricare in ogni modo, questo è vero, ci sono molte scene diciamo di sesso di ogni tipo, anche se non particolarmente nude, però è solo etero, perché tutto ciò che invece è omosessuale viene sempre, come dire, diviso o da un muro o da una porta chiusa, non si vede. Insomma, la trascrizione si ferma fin dove la morale comune la accetta, e anche questo, insomma, non mi sembra dell'Almodovar degli anni Ottanta, che invece si sarebbe scatenato anche in questo senso. Quindi devo dire che purtroppo il ritorno agli anni Ottanta, in cui io auspicavo lui potesse ritrovare se stesso dopo anni di cinema altalenante, invece forse è stata la delusione più cocente di questi anni 2000 per quanto riguarda Pedro Almodovar. E allora, questo è allora il giudizio abbastanza unanime sul nuovo film di Pedro Almodovar, Gli amanti passeggeri. Grazie Boris e a risentirci la prossima settimana. Alla prossima settimana. E allora è arrivato il momento di cominciare a giocare, prima di parlare di un altro film, di un horror che si intitola La Madre, un horror che fa abbastanza paura e che è il mestiere degli horror, ma siamo evidentemente in una fase interessante, è successo anche con Sinister la scorsa settimana, che è entrato anche nella top 10 in classifica. Dicevo, cominciamo a giocare insieme, come sempre noi vi proponiamo tre frammenti di un film, voi dovete indovinare di che film si tratta per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Tu chi sei? Flash Gordon, quarterback, New York Jets. Ecco, la fantasia americana è tutta qui. Un giocatore di football professionista che viene chiamato a salvare il mondo. Tom Brady potrebbe farlo! La Rosa Purpurea a chiocciola radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, l'unico modo per giocare al nostro DVD Game, ve lo ricordo. Non c'entra nulla la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, che invece serve a tutt'altro per tutta la settimana, ma al gioco, al game, si gioca solo attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica. Diteci di che film si tratta, se l'avete già indovinato, scriveteci anche il vostro indirizzo, più tardi avremo altre due opportunità. Victoria e Lily sono state trovate in pessime condizioni. I loro genitori sono morti. Sono rimaste da sole nella foresta per almeno 5 anni. Ciao, Victoria. Come siano sopravvissute è inspiegabile. Sono il fratello del tuo papà. Ti ricordi, zio Luke? In un ambiente familiare e amorevole, Victoria e Lily ritornerebbero a una vita normale. E insomma, questo è l'incipit, è la premessa di questo film, La Madre, di cui vogliamo parlarvi, un film diretto da Andrés Muschietti, se vogliamo dirlo in italiano, Muschetti, come direbbero gli argentini, visto che si tratta di un regista di nazionalità argentina, con nel cast quella che è una delle attrici davvero del momento, ovvero Jessica Chastain, e poi un cast internazionale per questa storia che prende le mosse da un cortometraggio che lo stesso Andrés Muschietti aveva fatto qualche anno fa, cortometraggio trovate anche su YouTube, su internet, di 2 minuti, che raccontava la storia di queste due bambine che avevano a che fare con una madre molto possessiva, molto gelosa, ma anche particolarmente ultraterrena, diciamo così, dalla figura quasi da strega, da spirito abbastanza maligno, e che incuteva molto timore alle due stesse figlie. Lì era un gioco, si chiamava Mama, che è anche il titolo originale di questo film, e secondo me sarebbe stato il titolo più bello anche da tenere in italiano, Mama, invece di questo La Madre, che può far pensare chissà che cosa. Detto questo, lì era un gioco che durava 2 minuti, qui è un film, un lungometraggio di 100 minuti che però ha saputo allargare il senso, andare a cogliere l'anima dei caratteri che popolavano quel piccolo cortometraggio, e l'ha fatto diventare una storia piuttosto coinvolgente. E tutto comincia con una crisi, diciamo così, di quelle come stiamo vivendo adesso, le crisi mondiali, economiche, eccetera, che portano un uomo a uccidere la moglie, a andarsene a tutta velocità sulle strade innevate degli Stati Uniti di montagna con le sue due figlie di circa 5 e un anno e mezzo, 2 anni. La macchina sbanda, l'uomo finisce in un burrone, in un fossato, trova un capanno, entra in questo capanno con le bambine, e capiamo subito che la sua intenzione, l'intenzione del padre, è quella, dopo aver ucciso la moglie, di sparare alle bambine. Ma in quel momento un'entità che noi percepiamo come una sorta di grande ombra arriva velocissima e strappa la bambina più grande dalle mani di quest'uomo, soprattutto fa fuori il padre. Queste due bambine di 5 e di 2 anni rimangono da sole nel capanno davanti a un falò e il film ci porta a 5 anni dopo. 5 anni dopo, in circostanze fortuite, le bambine vengono ritrovate dentro quel capanno. Non si capisce come abbiano potuto sopravvivere così tanti anni da sole, così piccole. Viene trovata una montagna di noccioli di ciliegia, che è l'unico indizio di come possano essersi alimentate. Soprattutto sono ormai allo stato brado, sono allo stato di animali selvatici, non solo sporche, ma anche si muovono su 4 zampe. Qualcosa che va veramente oltre il sopportabile umano. E allora lo zio, cioè il fratello del padre, si prende carico con la sua compagna, appunto Jessica Chastain, di queste 2 bambine, cercando una rieducazione molto molto difficile, resa ancora più difficile dal fatto che lo spirito, la presenza della madre non si è affatto estinta. Un fantasma è una presenza che crea turbamento, condannata a disturbare l'anima sempre, giorno dopo giorno. Dov'è adesso? È qui, in questa casa. Mamma, smettila! Ecco, è difficile provare a tirare fuori. La bambina più grande ha una reazione migliore, ha una nuova educazione, la più piccola è quasi irredenta. E tutto fa capire che a un certo punto si andrà verso un inevitabile e durissimo, anche sotto il profilo visivo, e anche molto commovente, devo dire, scontro finale, confronto forse finale fra 2 maternità, quella della madre spirituale, della presenza, di cui capiremo il perché di tanta possessività e di tanto dolore, è quello di questa donna, Jessica Chastain, appunto, che cerca in tutti i modi, da zia acquisita, di far quadrare i conti, ovviamente cercando a questo punto, trovando un affetto, un amore per queste bambine, dalle quali non vuole più separarsi. E questo duello fra queste 2 madri, spirituale e putativa, sarà il motore di questo film, che è un film, dicevo, molto molto interessante, una storia di fantasmi, una storia di presenze, ma anche una storia di difficile redenzione all'interno di quelli che sono i meccanismi della vita di tutti i giorni. Bella la regia asciutta da parte di Andrés Muschietti, che si prenota sicuramente un posto per prossimi lavori. Ottima l'interpretazione di Jessica Chastain, che per una volta troviamo bruna, con i capelli corti e mori, e un lungometraggio che effettivamente riesce, come dicevo prima, e questo è il motivo vero della sua riuscita, a trovare il centro, trovare l'anima dei caratteri, dei personaggi di quel piccolo corto, e a farlo diventare uno spettacolo horror per un paio d'ore, senza praticamente una goccia di sangue. Anche questo è sicuramente uno dei motivi, degli ingredienti per il successo. Chi è mamma Victoria? Eccoci ancora insieme alla Rosa Purpurea. Abbiamo ancora un film di cui parlarvi, e abbiamo attinto ancora una volta il grande, grande contenitore, sempre in effervescenza, dell'animazione, che ormai regala 1-2 uscite la settimana. Questa volta tocca una famiglia preistorica, un film che racconta questo senso di famiglia portandoli indietro, quando l'uomo delle caverne doveva procurarsi il cibo rischiando la vita tutti i giorni. Racconta la curiosità di questi personaggi, racconta il loro esordio nella vita, le loro prime volte. Stiamo parlando dei Croods. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Mi chiamo Ip e questa è la mia famiglia, i Croods. Oh, siamo stati in quella caverna un'eternità. 3 giorni non sono un'eternità. Sì, con questa famiglia. Mamma, puoi uscire ora? Sono ancora viva! Già, ancora. Non abbiamo mai potuto esplorare il mondo esterno per colpa della regola di mio padre. Le novità sono un pericolo, dovete sempre avere paura. La nostra protagonista si è presentata da sola e ha già fatto intendere di che genere sia la sua famiglia. Cavernicola. Come avete sentito, vivono in una caverna, essendo abitanti della preistoria, ma hanno anche una mentalità e modi, diciamo, antichi. Il fratello si chiama Tonko, somiglia a Tonto, se ci pensate, una sorellina selvaggia, e poi il papà Grug. Uscire di notte è male, la curiosità è male, la paura ci tiene in vita. Ma come spiega Ip, la figlia, chi ha detto che sopravvivere sia divertente? Meglio violare le regole e uscire di sera. Chissà chi si incontra. Io sono Guy. E lui è Laccio. Cucina, parla, fa da navigatore. E mi tiene su i pantaloni. Dobbiamo andare. Il mondo sta per finire. Cosa? Tutto ciò che vedi non ci sarà più. Io la chiamo fine. Lui è un nomade che guarda verso il futuro e già conosce il fuoco. Sarà la guida dell'intera famiglia verso la modernità, intesa in tanti modi diversi. Io le chiamo scarpe. Ah! Le adoro! E i piedi dove sono? Conoscere i parenti di lei non è facile, nemmeno nella preistoria. Guy lo scopre in fretta, ma impara anche che trogloditi o cavernicoli che appaiano sono davvero una famiglia. Just before the dawn, when the light's still gone, shine, shine your way. Il cuore di tutto questo nuovo cartoon della DreamWorks sta nella parola famiglia. Il padre che tenta di proteggere i suoi cari, la figlia ribelle che come ogni adolescente ha la sensazione di dover lottare per affrancarsi dalla rete stretta dei legami parentali. Se non fossero vestiti di pelli e con la clava in mano, potremmo dire che i Cruz siamo noi. Più era glaciale che Flintstone, se vogliamo ricordare la preistoria già passata al cinema, in questo film diretto da Kirk DeMicco e Chris Sanders, lo stesso di Dragon Trainer, autori anche della bella sceneggiatura, da un soggetto di John Cleese, sì, quello dei Monty Python. La morale è chiara, da un dirupo si cade o si prende il volo. La seconda che hai detto, perché bisogna sempre inseguire i propri sogni, anche se per farlo bisogna saltare lontano. Oltre il dirupo, c'è il domani. There's an open sky and a reason why you shine. Se ai più piccoli piaceranno le gag, non mancano, e gli animali fantastici, ai grandi non può sfuggire un umorismo che è anche sofisticato nelle tante citazioni. Per tutti, l'ambientazione è fantastica, colorata e immaginifica, un po' Pandora di Avatar, godibile con e senza gli occhiali per il 3D. Find your way. Ed erano i Cruz, Chiara Pizzimenti ce li ha raccontati, film che, come dicevo, non fatichiamo a immaginare molto in alto nelle graduatorie delle classifiche del box office della prossima settimana. È il momento di giocare ancora insieme con il secondo frammento del film misterioso di oggi. Una birra, astinenza da lupolo. Chi è lupolo? Il nano ubriaco. E binocolo, il nano guardone. Poi c'è ovulo, il nano ginecologo. E brufolo, il nano del tuo pisello. Bella questa. Politicamente scorretto. E allora di cosa si tratta? Di che film si tratta? Titolo e vostro indirizzo, la rosa purpurea, @radio24.it per provare a vincere una copia del Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. Più tardi ci sarà l'ultima traccia. Bene, adesso apriamo la nostra parentesi sui quelli che chiamiamo gli altri schermi, cioè quello che nel cinema si muove in giro, che non sia esclusivamente il film di attualità, la nuova uscita in sala, perché abbastanza curiosamente due dei grandi festival internazionali hanno aperto una sorta di spin-off estivo. Si è concluso a Venezia una rassegna appunto dedicata ai cortometraggi, e invece Locarno parte con la primavera locarnese proprio da domenica 24 per 4 giorni. Grande cinema anche e soprattutto del passato, grandi incontri. E noi ne parliamo con Carlo Chatrian, che è del Festival di Locarno, il direttore artistico del Festival di Locarno di agosto, ma anche di questa primavera locarnese. Un saluto, ciao e ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Buongiorno, un saluto a tutti, grazie. Carlo, raccontaci un po' innanzitutto come è nata l'idea di questo, che abbiamo detto appunto, spin-off primaverile del Festival di Locarno. Qual è il senso e se è una cosa destinata, diciamo, a durare in un certo senso? Ma l'idea di partenza è, da un lato appunto c'è l'idea di far vivere il Festival al di là dei 10 giorni della sua manifestazione, dall'altra parte c'è l'esigenza di rilanciare un luogo che a 2 passi da Locarno e che ha un'importanza storica molto forte avuto, che si chiama il Monte Verità, ed è un luogo dove negli anni 20 si sono ritrovati pensatori come Hermann Hesse, per intenderci. Di qui la proposta di parlare di cinema in un modo un po' diverso da quello che si può fare durante il festival, quindi affiancando a proiezioni incontri, dibattiti e discussioni. Ecco, e allora entriamo un po' nel vivo di questa prima edizione, vediamo quindi la salita al Monte Verità di frotte di cinefili per incontrare il grande cinema, ma per incontrare anche grandi personaggi, per esempio Alexander Sokurov. Sì, appunto, il fatto che Sokurov abbia di venire, non solo di venire, ma anche di fare qualcosa che non ha mai fatto, ovvero un atelier sull'arca russa, raccontando proprio come ha potuto realizzare questo film, che ho girato all'Ermitage in unico piano sequenza, mi ha molto onorato e ci ha fatto piacere. L'idea è proprio appunto di parlare di cinema e di far vedere il cinema che magari si è già visto, ma non ha sufficientemente. Quindi oltre a Socuro ci saranno altri due registi molto coraggiosi che tra l'altro stanno realizzando un film entrambi a partire da materiali scritti, perché il rapporto è sempre tra immagine e parola. Uno è Paolo Benvenuti, il nostro Benvenuti, e l'altro è Richard Indo, un regista svizzero che ha realizzato documentari molto d'impatto. Cito giustamente uno sui diari del Che Guevara. Ecco, per quanto riguarda invece il cinema che si vedrà, il cinema che si potrà vedere in queste quattro giornate, dicevo anche tanto cinema importante del passato. Se ci puoi fare qualche titolo e anche raccontarci i criteri di scelta che ci sono stati. Sì, guarda, l'idea di partenza era di pensare a come immagine e parola, ognuno dalla loro parte, nutrono le visioni cinematografiche, quindi non tanto parlare di cinema e letteratura, ma parlare degli strumenti espressivi che stanno alla base del cinema. E di qui abbiamo scelto delle proposte che magari possono suonare un po' stravaganti, ma che fanno un po' parte anche dello spirito del DNA di Locarno. Quindi iniziamo per intenderci con un film muto, un film che era considerato perduto, che è stato fatto vedere in prima mondiale a Berlino, che si chiama Lo studente di Praga, e che verrà fatto vedere con accompagnamento dal vivo a Locarno. Poi passiamo a un film italiano, perché uno degli obiettivi era anche avvicinare insomma il cinema italiano, che a me piace, a Locarno, un film che è stato fatto vedere a Roma, che è uscito nelle sale in Italia ma in Svizzera non è ancora conosciuto, Alì dagli occhi azzurri di Giovannesi, che prende spunto da una poesia di Pasolini, quindi la parola, ma la parola poetica. E poi un altro autore italiano che a me cuore, che si chiama Salvatore Mereu, che ci farà vedere Bella Smarisposa, che è un omaggio anche a uno scrittore sardo, Sergio Azzeni. Poi ovviamente il Faust di Sokurov. E chiudiamo invece con un ricordo ad Antonio Cucchi, proprio un anno dalla sua scomparsa, facendo vedere un film svizzero, questa volta tratto da un romanzo di Tabucchi, Requiem, un film di Alain Tanner. Ci sarà lo sceneggiatore del film, Bernard Coman, a dialogo con Roberto Ferrucci, che è uno scrittore che era molto vicino a Tabucchi negli ultimi anni della sua vita. E allora ricordiamo l'appuntamento, Primavera Locarnese, l'evento generale dal 21 al 28 marzo, ma dal 24 al 27 la prima edizione dell'Immagine e la Parola, appunto dedicata strettamente al rapporto fra cinema e letteratura, fra parola scritta e parola raccontata con le immagini, che è poi appunto il grande mestiere del cinema. Grazie a Carlo Chatrian. Grazie a voi. E allora, prima di dare la linea alla regia, diamo un'occhiata, l'abbiamo citato tante volte durante il racconto dei film, delle novità in sala, diamo un'occhiata al box office per dire che sta dominando nel mondo il grande potente Oz, quasi con le sue proprietà di magia e di illusionismo, nuovamente primo in classifica in Italia, 2 milioni nel weekend, 5 milioni e 7 dall'inizio dello sfruttamento, primo in America, 42 milioni in questo weekend, siamo già a 145 milioni di dollari dall'uscita in sala, quindi insomma grande e potentissimo anche al box office Oz. In Italia mi piace segnalare, al di là della qualità che poi possono avere, ma qui stiamo parlando di incassi e quindi di quote di mercato, mi piace segnalare nei primi 10 posti 5 film italiani, che sono Buongiorno Papà, che esordisce in seconda posizione, al quinto posto Educazione Siberiana di Salvatores, che veleggia verso i 4 milioni di euro di incasso globale, al sesto Amiche da morire di Giorgia Farina, al settimo Il Principe Abusivo, che è un po' il campione di incassi di questa fase della stagione per il nostro cinema, siamo intorno ai 14 milioni di incasso globale, e al decimo Ci vuole un gran fisico di Sofì Chiariello. Insomma, 5 film italiani, quasi tutte commedie, dentro i primi 10 posti. Adesso arriverà anche sicuramente Bisio, insomma, come dire, c'è movimento, e questo sicuramente è importante, perché tante sono le quote di mercato che il nostro cinema guadagna, tanta è la possibilità di produrre e anche di scoprire nuovi talenti. Siamo nella zona visioni domestiche, nella zona cinema da vedere in casa, in televisione o in home video. Televisione, grande cinema, come sempre grandi possibilità di recuperare grandi film sulla digitale terrestre. Siamo in collegamento con Giulio San Giorgio, con la redazione del settimanale Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Senti, oggi facciamo una cosa, occupiamoci prima di tutto di un regista, più che di un film. Tu adesso ne citerai un paio, ma come abbiamo visto da un po' di tempo e ancora per un po' di tempo, Fuori Orario si sta dedicando, si è buttato a peso morto proprio su Werner Herzog, insomma, che è un regista che si fa esplorare volentieri, e anche questa settimana prosegue una valanga di film, quindi informatevi sui siti, su internet, eccetera, ma noi ne abbiamo voluto tirare fuori un paio, dici tutto. Sì, è la terza settimana consecutiva di questa maratona che si intitola Cuore di vetro, il cinema di Werner Herzog, Cuore di ghiaccio, e approfondiamo un paio di titoli. Domenica su Rete 3 all'1:50 l'enigma di Kaspar Hauser, siamo nel 1824 nella piazza principale di Norimberga, fa la sua comparsa un giovane che non sa parlare, non sa dialogare con gli schemi della società e non può essere compreso. Ispirato a un fatto reale, leggendario in Germania, è un trip visionario in cui Herzog scandaglia la sua ossessione, l'assoluta diversità, alterità di un personaggio, è un capolavoro assoluto di sperimentalismo sia visivo che narrativo. E poi sabato su Rai 3, sempre ovviamente all'1:20, Aguirre Furore di Dio. Partendo dalle montagne del Perù, il capitano Aguirre si inoltra con alcuni uomini nel folto della foresta amazzonica alla ricerca del mitico Eldorado. È un viaggio sulla sproporzione tra l'essere e il voler essere, una spinta necessaria al progresso e degenerata poi in follia, uno dei capolavori di Herzog, sospeso tra allucinazione, critica coloniale, epica e estremamente brechtiani, insomma, veramente un melting pot con un Kinski ferino inarginabile. E allora, questi due capolavori imperdibili, ma insomma ricordo anche la ballata di Strozek, Wojciech, Il cattivo tenente, Ultima chiamata a New Orleans, per stare su tempi e su temi e su modi un po' più da mainstream, diciamo, di un Herzog che ha saputo sperimentare, ha saputo raccontare le montagne. È un regista davvero a tutto tondo e molto, molto interessante. Vi ripeto, tutte le informazioni poi dettagliate sul ciclo che Fuori Orario sta dedicando al regista tedesco le trovate tranquillamente su internet. E invece vogliamo occuparci anche di un altro, qui forse facciamo anche un gradino sopra, maestro assoluto della storia del cinema mondiale, ovvero Akira Kurosawa, con un suo film che è diventato a sua volta una sorta di capostipite del suo cinema e di un certo modo di fare il cinema, di raccontare l'epica, l'epopea. Stiamo parlando di Kagemusha. Cielo, mercoledì in prima serata alle 21:10, Kagemusha, l'ombra del guerriero. Siamo nel 1572 e un capo clan che mira la conquista di Kyoto, mortalmente ferito, ordina di farsi sostituire per 3 anni dopo la morte da un sosia, un Kagemusha appunto. Palma d'oro a Cannes 80 in un ex aequo con All That Jazz, ha segnato il ritorno in patria del grande regista dopo un lungo esilio artistico. Kurosawa tra l'altro non trovava i soldi per questo ennesimo suo magniloquente sogno cinematografico, e allora intervennero in soccorso Francis Ford Coppola e George Lucas, che di quei sogni si erano cibati. Rivedendolo oggi ci si trova di fronte a un grandissimo affresco epico, un saggio di cinema pittorico, un'analisi precisissima sul potere, sull'essere e l'apparire. E allora questo è Kagemusha, un altro titolo da non farsi sfuggire di Akira Kurosawa, mercoledì 27 marzo alle 21:10 su Cielo e quindi sul digitale terrestre in chiaro. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te Franco, un saluto ai radioascoltatori. Insomma, sempre suggestivo il grande cinema quando ci si ripresenta con questi straordinari nomi. Noi invece dobbiamo giocare con la terza traccia del film misterioso di oggi. Hai avuto un rapporto sessuale con una tua collega sopra prodotti alimentari che noi vendiamo al pubblico. La settimana scorsa l'ho trombata con una zucchina e poi l'ho venduta a una famiglia con 4 bambini piccoli. Ci vuole fegato. A noi occorre fegato. Perciò ti promuovo. Tu hai un sacco di problemi, lo sai? Appunto, lo dicevamo prima del politicamente scorretto, abbiamo insistito perché questa è la cifra che forse può, se anche l'avete immaginato, può farvi indovinare di che film si tratta, per provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film per il sabato e per la domenica. E settimana prossima sarà il momento della rivelazione dei vincitori, così come il game della settimana scorsa. In considerazione della giovane età della vittima e delle infauste circostanze della morte, eccetera eccetera, la cifra accordata è di 220 milioni. è stato il figlio di Daniele Cipri, film che ha aperto la stagione in corso cinematografica, ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Mi voglio vedere uno dei film più belli di quest'anno in Italia, insieme appunto a Viva la Libertà di Roberto Andò. Sono quei film che ti fanno dire che la lezione dei grandi del cinema italiano non è andata perduta e qualcuno l'ha raccolta. Cinema estremamente visivo che arriva in on video, e i due vincitori sono due nostre ascoltatrici del nord, ovvero Greta Ardissone di Milano e Virginia Nava di Valle Crosia, provincia di Imperia. Sono loro che riceveranno l'edizione on video in DVD di È stato il figlio, di cui ci parla il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, da Fandango l'uscita DVD, ricordo che c'è anche Blu-ray, sono entrambi di eccellente qualità, soprattutto i Blu-ray, una versione in alta definizione di notevole caratura con audio DTS ad alta risoluzione, una resa da sala cinema. Come extra segnalo un interessante backstage con immagini della lavorazione dell'opera. E questo allora è stato il figlio, il game della scorsa settimana, quasi in un parallelo di presentazione a Venezia c'era anche in concorso l'ultimo film di Marco Bellocchio, il più recente, Bella addormentata, con Tony Servillo. Ti ricordi quando la mamma ha ricevuto i sacramenti e tu mi hai accompagnata alla porta, mi hai chiuso fuori? Io a un certo punto non ho resistito, ho socchiuso la porta, ho guardato dentro e ero così arrabbiata con te che io ho immaginato che tu la stessi soffocando. E poi ieri o oggi, stamattina, non lo so quando, ma non importa quando, ma ho capito, ho visto che tu in realtà l'abbracciavi. Negli ultimi giorni, prima dell'interruzione dell'alimentazione artificiale a Eluana Englaro, si incrociano le vite di persone connesse a vario titolo alla giovane in coma da 17 anni, tra le quali un senatore incaricato di contrastare l'eutanasia chiesta dal padre di Eluana, mentre sul fronte opposto c'è anche la figlia del politico. A loro si aggiungono le figure di un medico che vorrebbe fare qualcosa per una tossicodipendente che ha tentato il suicidio, ma c'è anche una madre consumata dal coma profondo in cui si trova la figlia. Dramma intenso diretto dal maestro Bellocchio, che per tornare alla memoria dei giorni prima della morte dell'Englaro ha scelto un complesso e profondo approccio corale. Da 01 Rai Cinema, un'edizione anche in alta definizione, questa di grandissima qualità, traccia DTS ad alta risoluzione in italiano, e come extra segnaliamo un making of di 33 minuti. E questa era Bella addormentata di Marco Bellocchio. Sempre da questa stagione cinematografica peschiamo un altro suggerimento in un video. Steven Soderbergh firma Magic Mike, un film che racconta il mondo dello spogliarello maschile, lo fa attraverso un attore che è fra i più affascinanti, di maggiore presa sul pubblico femminile, ovvero Channing Tatum, che tra l'altro è anche un po' il protagonista vero, in quanto il film racconta in parte anche la sua storia, la sua vicenda come spogliarellista. Non devi solo spogliarti, ma avverare le fantasie più selvagge di ogni donna in quella sala, ok? Tu sei il marito che non hanno mai avuto, sei il principe azzurro, quello che non è mai arrivato, sei la loro avventura di una notte, tu sei il sesso sfrenato che avranno quella sera con te su quel palco. E quando torneranno dai mariti non saranno nei guai, perché tu, baby, l'hai resa una cosa legale, sei la loro liberazione. Giovane disoccupato, Adam si ritrova quasi per caso all'interno di un locale di striptease maschile e in modo altrettanto inaspettato finisce sul palco a intrattenere il folto pubblico femminile. Sostenuto dal proprietario, ma soprattutto dall'amico Mike, stella del locale, Adam è iniziato a quella che appare una fulgida carriera che ne metterà però in luce pregi ma anche i limiti. In consueta opera diretta da Steven Soderbergh, in parte biografia dell'attore Channing Tatum che l'ha fortemente voluta, e nel film interpreta proprio Mike. Tatum inizialmente aveva scelto come regista Nicholas Winding Refn dopo aver visto Bronson. Da chi film l'edizione è un video, di cui consigliamo sicuramente la versione Blu-ray per godere appieno della qualità dell'opera. C'è una doppia traccia di DTS ad alta risoluzione italiano e inglese, sono entrambe di grande spessore tecnico. Come extra un breve backstage, interviste al cast, ma ci sono anche tre scene estese integrali. E questo era Magic Mike, grazie a Claudio Poffi, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E siamo arrivati in fondo alla nostra ora di cinema qui su Radio 24. Sentite le note della nostra sigla che ci accompagnano. Io vi ricordo ancora, come sempre, la nostra community Day by Day, chiamiamola così, ovvero la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace, unitevi a noi per dire la vostra sui film che vedete, per chiederci quello che volete di cinema, per avere sempre in tempo reale classifiche, consigli, la puntata dell'ascoltare in podcast, insomma, per fare sì che la Rosa Purpurea duri una settimana insieme a voi. La Rosa Purpurea Radio 24 su Facebook. Grazie a Giorgio De Luca, come sempre, in redazione. Grazie a Peter Belscapè in regia. Appuntamento alla prossima settimana. Un saluto da Franco D'Assisi.